Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Era una lunga sala, con divani rivestiti di stoffa cremisi e candele di cera su candelabri di cristallo. L'orchestra era confinata in un palco chiuso e due o tre ordini di ballerini stavano eseguendo con impegno le quadriglie. Due tavoli da gioco erano stati preparati nell'adiacente salotto, dove due coppie di anziane signore e un numero analogo di corpulenti signori stavano giocando a whist. Eseguito il finale, i ballerini si misero a passeggiare per la sala e Mr. Tupman si fermò col suo compagno in un angolo per osservare i presenti. «Ah, che donne incantevoli!» disse Mr. Tupman. «Un momento di pazienza!» disse lo sconosciuto. «Il meglio deve venire. L'aristocrazia non c'è ancora. Strano paese. Gli impiegati dell'arsenale di grado superiore ignorano gli impiegati dell'arsenale di grado inferiore. Gli impiegati di grado inferiore ignorano i piccoli proprietari di campagna. I piccoli proprietari di campagna ignorano i commercianti. Il commissario ignora tutti. Chi è quel ragazzino coi capelli biondi, gli occhi rossi e vestito come una maschera?» chiese Mr. Tupman. «Zitto, per carità! Occhi rossi, vestito in maschera, ragazzino! Ma che dite mai? L'alfiere del 97esimo, l'onorevole Wilmot Snipe, grande famiglia! Snipe! Vi rendete conto? Sir Thomas Clubber, Lady Clubber e le signorine Clubber!» gridò il servitore alla porta con voce stentorea. Tutta la sala fu pervasa da una grande emozione all'ingresso di un signore alto, in vestito blu e bottoni di metallo, accompagnato da una grassa signora in raso blu e da due signorine di analoghe dimensioni, vestite all'ultima moda e della stessa tinta. «Il commissario, comandante dell'arsenale, personaggio importante, personaggio molto importante», sussurrò lo sconosciuto all'orecchio di Mr. Tupman, mentre il comitato di beneficenza accompagnava in corteo Sir Thomas Clubber e la famiglia in fondo alla sala. L'onorevole Wilmot Snipe e altri distinti signori si affollarono per rendere omaggio alle signorine Clubber e Sir Thomas Clubber restò diritto e impalato e osservò maestosamente la riunione al di sopra della sua cravatta nera. «Mr. Smithy, la signora Smithy e le signorine Smithy», fu l'annuncio successivo. «Chi è Mr. Smithy?» chiese Mr. Tracy Tupman. «Qualcuno dell'arsenale», rispose lo sconosciuto. Mr. Smithy si inchinò con deferenza a Sir Thomas Clubber e Sir Thomas Clubber rispose al saluto con consapevole degnazione. Lady Clubber prese visione della signora Smithy e famiglia attraverso la lente di ingrandimento dell'occhialetto e la signora Smithy a sua volta squadrò la signora qualcun altro il cui marito non apparteneva all'arsenale. «Il colonnello Balder, la signora Balder e la signorina Balder», furono i successivi arrivati. «È il comandante della guarnigione», disse lo sconosciuto in risposta a uno sguardo interrogativo di Mr. Tupman. La signorina Balder fu affettuosamente accolta dalle signorine Clubber. Il saluto fra la moglie del colonnello Balder e Lady Clubber fu dei più calorosi che si possono immaginare. Il colonnello Balder e Sir Thomas Clubber si scambiarono le tabacchiere. Mentre l'aristocrazia del luogo, i Balder, i Clubber e gli Snipe, proteggeva così bene la sua dignità in fondo alla sala, le altre classi della società ne imitavano l'esempio in altre parti di essa. Gli ufficiali meno aristocratici del 97esimo si dedicavano alle famiglie dei funzionari meno importanti dell'arsenale. Le mogli degli avvocati e la moglie dell'importatore di vini erano a capo di un'altra categoria. La moglie del fabbricante di birra faceva visita ai Balder e la signora Tomlinson, titolare dell'ufficio postale, sembrava essere stata scelta per mutuo consenso a guidare il gruppo dei negozianti. Uno dei personaggi più popolari nel proprio gruppo era in quel momento un ometto grasso, con un cerchio di irti capelli neri intorno alla testa e una larga pelata nel mezzo. Il dottor Slammer, chirurgo del 97esimo. Il dottore fiutava tabacco con tutti, chiacchierava con tutti, rideva, ballava, scherzava, giocava a whist, faceva tutto ed era dappertutto. A queste attività, pur tanto numerose e varie, il piccolo dottore ne aggiungeva un'ultima, più importante di tutte le altre. Dedicava infaticabilmente le più assidue e devote attenzioni a una vedova piccola e anzianotta che a giudicare dal vestito costoso e dalla profusione degli ornamenti doveva rappresentare un addendo non disprezzabile per una rendita limitata. Sul dottore e sulla vedova si fissarono per qualche tempo gli occhi di Mr. Tupman e del suo compagno, finché lo sconosciuto non ruppe il silenzio. Un sacco di soldi, la vecchietta. Non quel dottore pieno di sé. Niente male l'idea. Ci sarà da divertirsi. Fu quanto di più intelligibile uscì dalle sue labbra. Mr. Tupman lo guardò con aria interrogativa. «Vado a ballare con la vedova», disse lo sconosciuto. «Chi è?» chiese Mr. Tupman. «Non so, mai vista prima in vita mia. Taglio fuori il dottore, o la va o la spacca». E lo sconosciuto attraversò immediatamente la sala, andò ad appoggiarsi alla mensola di un caminetto e incominciò a lanciare occhiate di rispettosa e malinconica ammirazione al viso grassottello della piccola anziana signora. Mr. Tupman guardava lo spettacolo con muta meraviglia. Lo sconosciuto fece rapidi progressi. Il piccolo dottore stava ballando con un'altra dama. La vedova lasciò cadere il ventaglio. Lo sconosciuto lo raccolse e glielo porse. Un sorriso, una riverenza, un inchino, poche parole di conversazione. E lo sconosciuto si diresse audacemente verso il maestro delle cerimonie e tornò con lui. La piccola commedia della presentazione e lo sconosciuto e la signora Badger presero il loro posto in una quadriglia. La sorpresa di Mr. Tupman di fronte a questa sbrigativa procedura, per quanto grande fosse, non era niente rispetto allo sbalordimento del dottore. Lo sconosciuto era giovane e la vedova si sentiva lusingata. Come le attenzioni del dottore non erano state raccolte dalla vedova, lo sdegno del dottore non fece alcuna presa sul suo imperturbabile rivale. Il dottor Slammer sembrava paralizzato. Lui, il dottor Slammer del 97esimo, essere sbaragliato in un batter d'occhio da un uomo che nessuno aveva mai visto prima e che nessuno ancora conosceva. Il dottor Slammer del 97esimo, buttato via così. Impossibile, non poteva essere. E invece sì, eccoli là, tutte e due. Cosa? Le presentava il suo amico. Non poteva credere ai suoi occhi. Guardò ancora e fu amaramente costretto ad ammettere che aveva visto giusto. La signora Badger stava ballando con Mr. Tracy Tupman. Non c'era da sbagliare. Davanti a lui c'era la vedova che saltellava pesantemente qua e là con non comune energia, mentre Mr. Tracy Tupman rimbalzava accanto a lei col viso improntato alla più intensa solennità, danzando, lo fanno molti, come se la quadriglia non fosse cosa da prendersi alla leggera, ma una severa riprova dei propri sentimenti che richiede di essere affrontata con inflessibile risolutezza. Con pazienza e in silenzio il dottore sopportò tutto questo. E la mescita del vin brûlé, e la ricerca dei bicchieri, e la caccia ai biscotti, e ogni altra civetteria che seguì. Qualche attimo dopo che lo sconosciuto era scomparso per accompagnare la signora Badger alla carrozza, però, anch'egli si precipitò fuori della sala, mentre ogni stilla dell'indignazione fino a quel momento compressa ribolliva attraverso tutti i pori del suo viso trasudante di collera. Lo sconosciuto stava tornando con Mr. Tupman al fianco. Parlava a bassa voce e rideva. Il piccolo dottore ebbe sete del suo sangue. Dunque esultava, aveva trionfato. «Signore!» disse il dottore con voce minacciosa, estraendo un biglietto da visita e ritraendosi in un angolo del corridoio. «Il mio nome è Slammer, dottor Slammer, signore, 97esimo reggimento, caserma di Chatham. Il mio biglietto, signore, il mio biglietto!» Voleva dire di più, ma l'indignazione lo soffocava. «Ah!» rispose lo sconosciuto freddamente. «Slammer? Molto obbligato. Un gentile pensiero. Nessuna malattia al momento, Slammer, ma qualora ne avessi, batterò alla vostra porta.» «Voi siete un mascalzone, signore!» boccheggiò furibondo il dottore. «Un poltrone, un codardo, un bugiardo, ma di cos'altro avete bisogno per darmi il vostro biglietto, signore?» «Oh, adesso capisco!» disse lo sconosciuto quasi fra sé. «Vino troppo forte, ospitalità generosa, molto imprudente, molto. Meglio la limonata, stanze troppo calde. Signori già avanti negli anni, ne risentono poi il giorno dopo. Spiacevole!» «Piacevole!» E fece per allontanarsi. «Vi fermerete bene in questo albergo!» disse indignato l'ometto. «Voi ora siete ubriaco, ma avrete mie notizie domani mattina. Vi troverò, signore! Vi troverò!» Slammer si calcò il cappello sulla testa con una manata sdegnosa, spirando un'indicibile ferocia. Lo sconosciuto salì con Mr. Tupman nella camera di quest'ultimo per rimettere a posto le penne prese in prestito dall'inconsapevole Mr. Winkle. Quest'ultimo dormiva profondamente La restituzione fu presto compiuta. Lo sconosciuto era allegrissimo. E Mr. Tracy Tupman, completamente rimbambito dal porto, dal vin brûlé, dalle luci e dalle signore, considerava tutto l'accaduto come un bellissimo scherzo. Il suo nuovo amico partì e Mr. Tupman, dopo aver incontrato qualche piccola difficoltà a trovare il buco del suo berretto da notte, che era stato fatto apposta per accogliere la sua testa, e dopo aver rovesciato il candeliere nel corso di questi tentativi, trovò il modo di entrare nel letto mediante una serie di complicate evoluzioni e ben presto sprofondò nel sonno. Erano appena suonate le 7 della mattina seguente quando la vasta mente di Mr. Pickwick fu tolta dallo stato di incoscienza in cui il sonno l'aveva precipitata da un forte bussare alla porta della sua camera. «Chi è?» disse Mr. Pickwick, saltando a sedere sul letto. «Il lustrascarpe, signore!» «Che cosa volete?» «Prego, signore, potete dirmi quale signore del vostro gruppo possiede un abito da sera di un azzurro piuttosto chiaro con le iniziali CP sui bottoni dorati?» «Non l'avrà dato a spazzolare», pensò Mr. Pickwick, «e quest'uomo avrà scordato a chi appartiene». «Mr. Winkle», disse poi a voce alta, «terza porta a destra». «Grazie, signore», disse il lustrascarpe e si allontanò. «Che cosa c'è?» gridò Mr. Tupman quando un forte bussare alla sua porta svegliò lui dal suo dimentico riposo. «Posso parlare a Mr. Winkle, signore?» rispose il lustrascarpe dal di fuori. «Winkle! Winkle!» gridò Mr. Tupman chiamando verso la stanza interna. «Ehi là!» rispose una voce debole da sotto le coperte. «Mi cercano! Qualcuno alla porta!» E dopo aver compiuto lo sforzo di dire tante parole, Mr. Tracy Tupman si voltò e si riaddormentò immediatamente. «Mi cercano?» disse Mr. Winkle saltando in fretta giù dal letto e mettendosi addosso qualcosa per coprirsi. «Mi cercano! Così lontano da Londra! Ma chi mai può cercarmi a questo mondo?» «Un signore in sala da pranzo!» rispose il lustrascarpe quando Mr. Winkle aprì la porta e se lo trovò davanti. «Il signore dice che non vi tratterrà un minuto di troppo, ma che deve vedervi a tutti i costi». «Stranissimo», disse Mr. Winkle. «Scendo subito!» Si avvolse frettolosamente in uno scialle e nella vestaglia e scese le scale. Una vecchia e due camerieri stavano pulendo la sala da pranzo e un ufficiale in bassa uniforme guardava fuori dalla finestra. Si voltò all'entrare di Mr. Winkle e fece con la testa un rigido inchino. Poi, fatti uscire i camerieri e richiusa con molta circospezione la porta, disse: «Mr. Winkle, suppongo?» «Sì, mi chiamo Winkle, signore». «Non vi stupirete, signore, nell'apprendere che mi trovo qui a quest'ora per conto del mio amico dottor Slammer del 97°. «Il dottor Smaller», disse Mr. Winkle. «Il dottor Slammer mi ha pregato di dirvi che giudica il vostro comportamento di ieri sera intollerabile da parte di un gentiluomo e ha aggiunto indegno di un gentiluomo». Thank you. Lo stupore di Mr. Winkle era troppo vero e troppo evidente per sfuggire all'osservazione dell'amico del dottor Slammer, il quale, pertanto, proseguì. Il mio amico, dottor Slammer, mi ha pregato di aggiungere questo. Egli è convinto che voi eravate ubriaco in quella parte della serata e probabilmente non avete capito la gravità dell'insulto di cui siete colpevole. E mi incarica di dirvi che ove questo avvenga addotto come attenuante per il vostro comportamento, egli consentirà ad accettare le vostre scuse scritte di vostro pugno e dettate da me. Scritte di mio pugno? Ripeté Mr. Winkle col tono della più profonda meraviglia. Naturalmente, conoscete l'alternativa, ribatté freddamente il visitatore. Vi hanno incaricato di trasmettere questo messaggio a me, facendo proprio il mio nome, chiese Mr. Winkle con le idee immediatamente confuse da questa straordinaria conversazione. «Io non ero presente», rispose il visitatore, «e in seguito al vostro rifiuto di dare al dottor Slammer il vostro biglietto da visita, sono stato pregato dal suddetto signore di identificare la persona che indossava un abito assai poco comune, un frac di colore azzurro chiaro con bottoni dorati su cui figuravano in rilievo un busto e le iniziali CP». Mr. Winkle vacillò, stupefatto, nel sentire così minutamente descritto il proprio vestito. L'amico del dottor Slammer proseguì. Da informazioni prese al bar poco fa, ho tratto la certezza che il proprietario di quell'abito fosse arrivato qui ieri pomeriggio con altri tre signori. Immediatamente mi sono rivolto a quello che dalle descrizioni sembrava essere il capo del gruppo ed egli mi ha subito indirizzato a voi. Se la torre principale del castello di Rochester si fosse improvvisamente allontanata dalle sue fondamenta e si fosse portata davanti alla finestra della sala da pranzo, la sorpresa di Mr. Winkle sarebbe stata poca, in confronto allo sbalordimento con cui aveva ascoltato questo discorso. E lì per lì pensò che gli avessero rubato il vestito. «Vi dispiace aspettarmi un momento?» disse. «Fate pure», rispose il poco gradito visitatore. Mr. Winkle corse in fretta su per le scale e con mano tremante aprì la valigia. Il vestito era al suo solito posto, ma mostrava, ben guardare, segni evidenti di essere stato indossato la sera prima. «Deve essere andata così», disse Mr. Winkle lasciando ricadere il vestito. «Ho bevuto troppo dopo pranzo e in seguito ho un vaghissimo ricordo di aver fatto due passi per la strada e fumato un sigaro. Ero molto ubriaco, questo è il fatto. Mi sarò cambiato d'abito, sarò andato da qualche parte, avrò insultato qualcuno, deve essere andata così. E questo messaggio è la terribile conseguenza di quanto è accaduto». Così dicendo, Mr. Winkle ritornò sui suoi passi in direzione della sala da pranzo, con la tetra, spaventosa risoluzione di accettare la sfida del bellicoso dottor Slammer, affrontandone tutti i rischi.